19강 어휘 andare, bere, conoscere, dormire, dovere, entrare, fare, guidare, mettere, migliorare, nuotare, potere, sapere, studiare, suonare, tagliare, tenere, uscire, vedere, vivere, volere, amore, banca, biblioteca, bisogno, carta, cinema, conoscenza, film, forbici, guerra, occhiali, pace, passaporto, patente, pianoforte, quaderno, tasca, voglia, ora, per favore, sempre. 문형. Lei può vedere senza occhiali? No, non posso. Lei sa suonare il pianoforte? Sì, so suonare il pianoforte. Vuoi conoscere mia moglie? Sì, la voglio conoscere. Sì, voglio conoscerla. Può andare in Italia senza passaporto? No, non posso. Se ho bisogno di soldi, vado in banca. Dove deve andare se ha bisogno di un libro? Vado in biblioteca. Deva. Per favore, può mettere questo quaderno nella sua tasca? No, non posso. Perché non può? Perché il quaderno è troppo grande. Voglio comprare delle forbici. Per fare che? Devo tagliare la carta. La patente, signore. Non la ho qui, ma a casa. Che cosa deve avere per guidare la macchina? La patente. Deve tenerla sempre con sé.